I due pappagalli, il re e suo figlio, da favole dicendo La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Due pappagalli, padre e figlio, a tavola ogni giorno sedevano d'un re, e figlio e padre i principi li amavano d'un amore che al mondo ugual non c'è. I due padri, legati in amicizia, vecchia si compiacevano di vedere i figli, che malgrado l'età frivola vivevano sempre insieme con piacer. Nutriti insieme, a scuola insieme andavano, e per l'uccel non era un poco onor aver per compagni un tanto principe, figliuolo d'un contanto imperator. Il ragazzin, per natural suo spirito, amava gli uccelletti, e un gentil passerino formava la delizia del suo divertimento giovanil. Per gelosia tra il pappagallo e il passero una seria tensione un dì scoppiò, e picchia e becca il meschinel più debole ad ingrassar la terra presto andò. Onde, adirato e per vendetta, il principe il pappagallo uccise. Un gran rumor si sparse per la reggia, infin che il vecchio pappagallo anche lui n'ebbe sentor. Chi mi sa dir le strida orrende e i gemiti, onde il povero padre invoca il ciel? Ma invano ei piange, in fondo a Stige il giovane già navigava al suo destin crudel. Ma tanto infonde nel paterno spirito odio e furor che il vecchio, colto il dì, salta gli occhi e pic-pacca acceca il principe col becco e sopra un albero fuggì. Per suo rifugio scelse un pino altissimo, dove accanto agli dèi l'aspro sapor gustò della vendetta, ove del principe padre non può raggiungerlo il furor. Per attirarlo con mansuetudine, amico vieni, gli favella il re, dimentichiam che ormai non vale il piangere ed io non sono in collera con te. Per quanto fitta in cor senta l'ingiuria, è il figlio mio che il tuo forse assalì, ahimè, forse è il destino inesorabile che il fato nel suo libro stabilì. Era scritto che l'un la vita perdere dovesse e l'altro il pio raggio del sol. Torna amico, ritorna entro la gabbia, l'un l'altro confortiamoci nel duol. E il vecchio pappagallo a lui, mio principe, rispose, dopo quel che capitò a queste belle ciarle, potria credere un pazzo forse, un pappagallo no. Ossia destin, ossia come dimostrano provvidenza che tiene il mondo in man, è scritto che io finisca i miei giorni miseri su questo pino o forse più lontan, in qualche selva ignota e solitaria, ove non venga quell'oggetto più, che a te d'odio sarà stimol continuo e a me cagion di tanto duol già fu. Io so che la vendetta è nel carattere lassù dei numi, ed è quaggiù dei re che vivono dai numi, e s'anche credere volessi e riposar sulla tua fe, non che tornar starò meno in pericolo, lontan dagli occhi tuoi, dalla tua man. Come contro l'amore è un gran rimedio anche per l'odio starsene lontan. Fine della favola. I due pappagalli, il re e suo figlio. Questa registrazione è di dominio pubblico.